Siamo qui con Nicoletta Tranquillo di Kilowatt, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, siamo qui per parlare della mostra Near Future Quasi Worlds, che sarà qui in Sala Borsa dal 5 al 29 maggio. Che cosa ci puoi raccontare al riguardo? Allora, è una mostra prima di tutto gratuita, quindi ad accesso libero, durerà 4 settimane ed è una mostra che Kilowatt porta a Bologna, in realtà in Italia per la prima volta. È una mostra che celebra i 7 anni dall'avvio di STARS, che è un programma della Commissione Europea che nasce per mettere insieme artisti, ricercatori, scienziati e mondo delle imprese della tecnologia, con l'obiettivo appunto di promuovere un'innovazione che si formi proprio, diciamo, al confine tra mondi e saperi diversi e che sia un'innovazione più inclusiva, più sostenibile, più umana in un certo senso. E per noi a Kilowatt diciamo questo tipo di contaminazioni, intersezioni, collaborazioni è qualcosa con cui, diciamo, lavoriamo da tanti anni e che ci affascina molto. Crediamo che veramente il cambiamento, che è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento, possa nascere soltanto dalla contaminazione tra saperi diversi e anche tra, diciamo, le scienze dure e le scienze più umanistiche e la creatività. Quindi, diciamo, le opere che sono in mostra sono proprio un esempio di questo tipo di collaborazione, perché sono 13 artisti, tra l'altro alcuni molto quotati, 13 artisti internazionali che hanno fatto delle residenze artistiche nei principali centri di ricerca europei, e quindi le opere che si vedono in mostra sono proprio il frutto di queste residenze artistiche e di questa collaborazione. Tra l'altro siete anche in collaborazione con Arte Fiera, con Art City. Esatto, sì, siamo uno dei main events di Art City, infatti saremo aperti ovviamente durante il weekend di Art City. Devo dire che la collaborazione con il Mambo poi è iniziata a Kilowatt, alle Serre, già da un paio d'anni, ed è anche quella, insomma, una collaborazione che ci piace molto molto, diciamo, interessante. Ci permette di fare una cosa che secondo noi è molto bella e molto importante, di portare l'arte anche fuori dai luoghi diciamo tradizionalmente deputati. E infatti il fatto poi di fare questa mostra dentro a Sala Borsa, in realtà appunto al piano meno uno di Sala Borsa, l'ingresso è da Cortile del Pozzo, ok? Quindi sì, è dentro all'auditorium Enzo Biagi, permette di portare appunto l'arte in un luogo che tradizionalmente non è deputato a quello, ma che è attraversato da tanta gente, e quindi insomma è un'opportunità. Certo, questo è uno dei luoghi veramente principali della città di Bologna. Per quanto riguarda invece gli artisti, qualche nome? Ma guarda, qualche nome famoso, diciamo più noto, è Rafik Anadol, e lui è un artista turco che allora adesso lavora all'MIT di Boston, ed è un artista che lavora molto con i centri di ricerca che si occupano di neuroscienze, e la sua opera è diciamo uno schermo con un'immagine cangiante che deriva da un algoritmo che elabora i segnali elettrici, gli impulsi elettrici del cervello. È molto affascinante. C'è un'altra artista molto interessante, molto brava, che si chiama Julia Körner, in mostra ha un'opera che è un abito che nasce dallo studio approfondito di come funzionano i colori nelle ali delle farfalle. Wow. E poi un abito che dopo questo studio diciamo viene riprodotto con una stampa 3D. Lei lavora tantissimo per rendere la moda un circolo chiuso, quindi utilizzare materiali rinnovabili e quindi ridurre, diciamo, l'inquinamento e l'impatto della moda, che sappiamo è molto molto alto. Un'altra artista che è molto famosa è Iris Van Arpen, anche lei è una designer e ha un abito qua in mostra. Lei ha lavorato per Gucci, lei è la costumista di molti artisti, di molte cantanti, insomma è molto, diciamo, famosa per le sue collezioni. Che meraviglia, insomma, una mostra veramente interdisciplinare, eterogenea, insomma, non vediamo l'ora di vederla. Vi aspettiamo.